Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, sono Giuliano Carcuro e sono in compagnia di Massimo Simonini, direttore artistico di Angelica Festival, il festival dedicato alla musica internazionale contemporanea e di ricerca che giunge quest'anno alla 33esima edizione. Dal 2 al 31 maggio 2023, 16 i concerti in programma al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno. Cos'è Angelica e cosa rappresenta questo festival? Angelica, ormai lo diciamo dalla prima edizione, cerca di rappresentare ogni forma di ricerca musicale che si muove in ambiti non convenzionali e che usi con libertà i materiali offerti dalle diverse tradizioni musicali. Quindi diciamo che idealmente si cerca un ibrido, cioè il frutto di una musica che è molto personale, e in questo essere personale certamente può andare ad attingere sulle forme esistenti, che come vediamo rispetto alla nascita del festival nel 1991, tutti i generi, le forme musicali si sono un po' evolute, più cose sono permesse. Beh, tanti saranno anche gli ospiti di fama internazionale, anche ad esempio chi apre il festival. L'apertura del festival è di Eiko Ishibashi e Jim Hurk in duo, poi abbiamo Sofia Jernberg, Alexander Hawkins, un festival nel festival con questo Create Festival a cura di Vadada Leo Smith, che presenta in due giorni, il 5-6 maggio, musiche sue con un ensemble di musicisti direi impressionante, comunque che è la prima volta che si riunisce insieme e è messo insieme apposta per Angelica e per Bologna. Questo dal 2 al 6 maggio. Poi abbiamo Lauren Sarah Hayes, che è un concerto a cura dei Matmos, che erano qui dal vivo l'anno scorso, ma quest'anno hanno proposto il lavoro di questa musicista e l'abbiamo ben accolto. Poi un duo dal Vietnam, Luong Nguyen Trinh e Go Tra Mi, dal ciclo Asia Sud-Est, che abbiamo iniziato nel 2018 a cura di Fabrizio Gilardino. Poi abbiamo Oren Ambarci con un sestetto inedito, che è l'unica data italiana e prima italiana a cura di Walter Rovere. Poi abbiamo l'ensemble Azione Improvvisa, che si presenta con un organico con tiorba, fisarmonica e chitarra elettrica più elettronica, un organico inedito. Per finire, una coproduzione con il Conservatorio di Bologna, con Angelica Orchestra, e un solo straordinario di Otomo Yoshide ai giradischi, che dopo invece dirige l'Angelica Orchestra, che è composta da 16 studenti del Conservatorio di Bologna. Perfetto, direi veramente allora un programma ricco di ospiti, ricco di esibizioni. Massimo, è stato veramente un piacere, grazie. Ciao Massimo. Ciao.